Come giusto in Roma, ma ne frega tipo zero. Non fotti mai con me, non fotti mai me ora. Baby, Miss Crystal, nei suoi eyes c'è il mar. Pelaggia nuda in tutta night, con le trecine mi fa. Poi se mi cadi per strada farò quello che non ti ha mai fatto né nessuno. Io ti rialzerò, ti rialzerò. Bam, bam, bam, bam.